chi sono? Che come ti è venuta questa idea? Perché? Ma una generazione trasversale di lavoratori italiani, dal Made in Italy al Live in Italy, cioè sono persone che lasciano il posto fisso, a volte per necessità, a volte per piacere, e si autoimprenditorializzano in rete, quindi utilizzando le nuove tecnologie. Ecco, tu cosa hai capito dopo più di un mese che insomma hai lanciato? Tra l'altro come è andata? Tu hai aperto un sito, ricordiamo il link. Il sito è www.workers.it con le tre W tipiche della rete, e beh, è andata che finora abbiamo oltre 100 storie, 100 schede segnalate su www.workers, e beh, diciamo che molti di questi www.workers italiani diventano tali molto spesso per necessità, a causa di un licenziamento, di una situazione difficile sul posto di lavoro. Poi invece c'è un bel gruppo, quasi la metà, che invece trasforma la propria passione in professione utilizzando le nuove tecnologie e, attenzione, con il supporto essenziale di famiglia e amici, alleati fedeli. Io ho notato questa caratteristica, che tra le storie di servizio al cliente molte sono le storie al femminile, e nelle storie che sono arrivate su www.workers.it moltissime sono quelle che arrivano, sono le storie in rosa di quelle donne che hanno scelto di lasciare il posto fisso e si sono messe in proprio. Molte delle schede arrivate su www.workers raccontavano di questo work-life balance, che è un termine dell'aziendalese spinto, che però parla di un equilibrio tra vita privata e vita professionale. Molte donne www.workers riescono in questo, a fare del proprio lavoro in rete una sintesi con la propria vita